Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il perdono esiste, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle vittime innocenti di quell'atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano mai più quegli orrori. Così ha parlato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in occasione del Giorno della Memoria, cioè oggi 27 gennaio ricorre il 75esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di Auschwitz, quello che più evoca gli orrori della follia nazista, e quindi oggi appunto giornata mondiale della memoria per ricordare quegli errori, come dice Mattarella, perché non si ripetano più, anche se continuano gli episodi veramente ignobili, indegni. Poco fa vedo sulle agenzie Crepa Sporca Ebrea scritto sulla casa di una donna a Torino, oggi poi in serata c'è stata la fiaccolata a Mondovì per le scritte che c'erano state nei giorni scorsi, un'altra svastica invece in provincia di Brescia nel bar di una ragazza marocchina. Veramente chissà che cosa, che vuoto pneumatico c'è nei pseudocervelli di queste persone. Poi parleremo naturalmente oggi, anche il giorno dopo, il voto in Emilia Romagna e Calabria, con tutto quello che ne consegue, vincitori e vinti, Conte che attacca Salvini e dice è il vero sconfitto di questa tornata elettorale, Zingaretti che incalza i 5 Stelle rinvigorito perché dice facciamo alleanze più ampie, più strutturate, poi la vittoria di Iole Santelli che riporta Forza Italia un po' al centro del centrodestra in Calabria. Ce ne occuperemo ampiamente, così come anche delle novità che riguardano il coronavirus, il virus che viene dalla Cina, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che oggi ha raddrizzato un po' il tiro dicendo che nei giorni scorsi forse ha sbagliato dicendo che il rischio di emergenza sanitaria globale era moderato, in realtà oggi ha detto è elevato. Quindi un sacco di cose anche questo inizio settimana da raccontarvi, allacciate le cinture e se volete scrivere i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li potete inviare tramite SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Il voto in Emilia Romagna e Calabria, Conte attacca Salvini e dice il grande sconfitto, Zingaretti incalza i 5 Stelle per un'alleanza più ampia e si guarda le conseguenze del voto negli schieramenti e sul governo. Coronavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rivede le sue valutazioni e parla di rischio globale elevato, prima vittima a Pechino. Oggi giornata della memoria, la Shoah è un monito perenne, sottolinea Mattarella, fiaccolata a Mondovì ed episodio razzista a Brescia con una svastica su una vetrina di un bar e questa scritta ignobile sulla casa di una donna a Torino. Medio Oriente, Trump annuncia per domani un piano che definisce epocale. La morte di Kobe Bryant, la fitta nebbia, una delle cause della tragedia, l'elicottero viaggiava a 300 km all'ora. Grammy Awards, Billie Eilish sbanca e fa il record, vince in 4 categorie ed è la più giovane di sempre. Partiamo quindi naturalmente dall'esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Nella prima c'è stata la vittoria appunto in Emilia-Romagna del centrosinistra con la conferma del governatore Bonaccini. In Calabria l'affermazione del centrodestra con Iole Santelli eletta presidente e il Movimento 5 Stelle che resta fuori. Un dato deludente nelle due regioni per i grillini che ridisegna necessariamente i rapporti di forza anche nella maggioranza. Si chiama Matteo Salvini il grande sconfitto di questa tornata elettorale che ha voluto trasformare in referendum pro o contro di lui e ha perso. È lapidario il giudizio sull'esito del voto del premier Conte, il quale però assicura nulla cambia, nessuna instabilità, nessun contraccolpo sul governo dovuto al crollo 5 Stelle. Si va avanti con l'agenda fino al 2023, la prospettiva è di più ampio respiro. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre, quindi io mi auguro che si possa rinforzare sempre più un ampio fronte. Ma Conte si toglie un altro sassolino dalla scarpa, indegno oscurantista, attacca andare in giro a citofonare additando singoli cittadini. Lavori per il paese, non per odio verso di me, la replica a stretto giro di Salvini. Rifarei tutto, anche il citofono, dice il leader della Lega. Quanto al voto, a livello nazionale avremmo stravinto e in Emilia Romagna passaggio solo rinviato. Ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione, perché per quello che mi riguarda il cambio in Emilia-Romagna è solo rimandato. Un voto che di fatto ridisegna i rapporti di forza tra PD e 5 Stelle. L'asse politico cambia, dice il vice segretario Dem Orlando, ma il segretario Zingaretti assicura la maggioranza ne esce rafforzata. Mentre per il capo reggente pentastellato Crimi bisogna continuare a lavorare pancia a terra, ma il movimento appare sempre più diviso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Quindi elettrici ed elettori, se sia in Emilia Romagna che in Calabria, hanno scelto ora l'impegno per le cose da fare, dicono i due presidenti. Ora che ha portato l'Emilia-Romagna di nuovo a votare in massa e il PD di nuovo a vincere, Stefano Bonaccini ha una nuova prospettiva davanti a sé, la ripartenza dell'intero centro-sinistra. L'uomo che ha fermato l'assalto leghista, la strada ce l'ha già chiara in testa. Una più precisa identità, più territorio e quella stessa miscela di radici e futuro che lo ha fatto vincere nella più difficile delle sfide. Certamente sento che serve qualcosa di nuovo che parta. Io l'ho detto anche a Nicola, Zingaretti. Secondo me serve un gruppo di gente che attinga di più dagli amministratori locali. Parole che da Casalecchio arrivano al Nazareno con tutto il peso di una vittoria mai messa in dubbio, garantisce, figlia di una ritrovata mobilitazione, per cui ringrazia al telefono il portavoce delle Sardine, frutto della buona amministrazione e anche di un voto disgiunto da 5 Stelle che hanno sbagliato a non allearsi, Marca, e dalla parte non sovranista del centrodestra. Un'area a cui ora con l'esperimento della sua lista personale Bonaccini prova a guardare offrendo una mano per un PD più largo e robusto, spiega. Un orizzonte che ora che ha difeso l'Emilia-Romagna lo proietta ancor di più in una dimensione nazionale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Casalecchio. Ha concluso la campagna elettorale completamente afona, ma ha già lanciato segnali originali in direzione del rinnovamento. La neopresidente della Regione Calabria, Iole Santelli, intanto vuole incontrare gli altri candidati a presidente per prendere quanto di interessante c'è nei loro programmi. E poi ha subito lanciato un appello alle donne, che giudica forti, tenaci e caparbie, perché si facciano promotrici di un cambiamento in rosa, e ai tanti calabresi che hanno avuto fortuna all'estero, perché possano contribuire al rilancio della loro terra d'origine. A loro ha chiesto una giornata al mese come restituzione alla Calabria. Il Consiglio regionale intanto vede la scomparsa di qualche eminenza politica presente da più legislazioni e la punizione dei trasfughi che erano passati dal centro-sinistra al centro-destra e non sono stati rieletti. E anche questa volta nei banchi dell'opposizione non ci sarà nessun esponente del Movimento 5 Stelle, che in Calabria mostra tutta la sua crisi, colpito anche, secondo le prime analisi, da un consistente fuoco amico. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. E tra poco naturalmente ci sarà spazio per analizzare l'esito delle consultazioni, i flussi, cioè dove sono andati i voti degli uni e degli altri, in particolare del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo si apprende che il Consiglio dei Ministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. Via libera poi alle nomine al vertice delle agenzie fiscali. Ernesto Maria Ruffini viene indicato al vertice dell'Agenzia delle Entrate, Antonio Agostini al Demanio e Marcello Minenna alle Dogane e Monopoli. Parliamo di pensioni perché riparte il confronto tra governo e sindacati sulla flessibilità. Il cantiere pensioni è formalmente riaperto. L'obiettivo del governo è superare la riforma Fornero e mantenere quota 100 fino al 2021, termine della sperimentazione triennale. L'esecutivo, ha spiegato il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ai sindacati, punta a inserire le nuove misure nella nota di aggiornamento al DEF di settembre per poi fissarle nella legge di bilancio. La riforma, assicura il ministro, darà stabilità al sistema. I sindacati giudicano positivamente l'avvio del confronto. La volontà, dice il segretario confederale CGIL Roberto Ghiselli, è quella di fare una riforma strutturale del sistema, non semplici aggiustamenti. Ci dovrebbe essere una certa sintonia sui principi generali, che sono una flessibilità in uscita maggiore, un'attenzione alle situazioni di fragilità del mercato del lavoro, a partire dalle condizioni dei lavoratori gravosi, le donne, il lavoro di cura e in qualche modo anche il tema in particolare dei giovani. Tre commissioni tecniche studieranno la possibilità di separare previdenza e assistenza, l'impatto economico delle misure e le norme per i lavori gravosi. Governo e sindacati il 3 febbraio daranno il via ai lavori. Primo tema all'ordine del giorno, la pensione di garanzia per i giovani. La verifica politica sulla riforma complessiva è prevista a marzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alle notizie sul coronavirus. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è elevato, ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse moderato. L'ultimo rapporto dell'organismo dell'ONU, diffuso domenica sera, ha rivelato un rischio molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale. In una nota aggiunge che nelle comunicazioni nei giorni precedenti era stato detto erroneamente che il rischio era moderato. E mentre la Cina continua con misure di sicurezza sempre più drastiche, si registra la prima vittima a Pechino. Comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, vi dicevo, con un esperto virologo. E i timori legati al coronavirus dalla Cina affondano le borse europee. Milano cede il 2,3%, male soprattutto lusso e turismo. Quantificare le conseguenze economiche è ancora difficile, ma le ricadute iniziano a farsi sentire. L'epidemia di coronavirus scoppiata in Cina proprio a cavallo del Capodanno, settimana cruciale per viaggi e shopping, danneggia in primis il turismo, sia per la paura di viaggiare, sia per la decisione di Pechino di bloccare i pacchetti internazionali, alberghi e aerei. Così crollano in borsa i titoli delle compagnie come Air France, EasyJet, Lufthansa, Ryanair, giù anche il lusso da Louis Vuitton, Kering, Hermès, Ferragamo e Luxottica. Secondo il monitor Bain Alta Gamma, più di un terzo della domanda di beni di lusso nel mondo ha matrice cinese e lo scorso anno i cinesi hanno contribuito per il 90% alla crescita del mercato del lusso. Per quanto riguarda l'Italia, meta preferita in Europa per i viaggi dalla Cina, Global Blue rivela che nel 2019 è la nazionalità cinese ad aver generato la maggiore quota di acquisti tax free, superando il 30% del totale. Il timore è che accordi commerciali e operazioni strategiche possano saltare. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi, come vi dicevo all'inizio, giornata della memoria, 27 gennaio 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo nazista di Auschwitz e il mondo celebra questa giornata. Il più vecchio ha 101 anni, la più giovane 75 ed è nata ad Auschwitz da prigioniera. E c'è tornata oggi, insieme con altri 200 sopravvissuti che hanno varcato il cancello di quel campo di sterminio per tenere viva la memoria. Era il 27 gennaio del 1945, 75 anni fa, quando i primi soldati russi entrarono nel campo dove i nazisti avevano ucciso 1.100.000 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani e degli ebrei fu feroce e spietata. Il perdono esiste, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. Intanto i segnali di uno strisciante antisemitismo si moltiplicano. In un bar nel Bresciano, gestito da una italo-marocchina, è stata rotta una vetrina e sono state disegnate per terra delle svastiche. Venerdì a Mondovì, in provincia di Cuneo, la casa di una partigiana è stata imbrattata con una scritta antisemita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'ISIS vuole lanciare una nuova fase prendendo di mira Israele, il contenuto di un messaggio audio diffuso sul network di propaganda dei jihadisti. All'estero, Medio Oriente, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che renderà pubblico il suo piano di pace per il Medio Oriente domani alle 12, aggiungendo che potrebbe trattarsi di un piano epocale. Sono le prime luci dell'alba in Gran Bretagna ed in Europa il 24 giugno 2016 quando Jenny Watson, presidentessa della United Kingdom Electoral Commission, certifica la sorpresa più inaspettata. Con oltre 17 milioni e 400 mila voti, la campagna per lasciare l'Unione Europea sconfigge di misura quella per restarvi nel referendum su Brexit. Il giorno stesso il Premier Cameron si dimette. Il 13 luglio Theresa May prende le redini del paese e 8 mesi dopo la May fa scattare l'articolo 50 del trattato dell'Unione Europea che avvia formalmente il processo di uscita della Gran Bretagna. Neanche un mese dopo però commette un grave errore, convoca elezioni anticipate, i conservatori si confermano prima forza ma riducono il numero di parlamentari e la May è costretta a presiedere un governo di minoranza dipendendo dai cruciali voti del partito unionista nordirlandese. I negoziati sull'accordo di divorzio con l'Europa proseguono tra mille difficoltà fino a quando il 25 novembre 2018 Theresa May sigla intesa con Bruxelles, intesa che sarà però affondata 3 volte tra gennaio e marzo 2019 da un parlamento diviso incagliandosi sul nodo irrisolto del confine nordirlandese. Order! Il 29 marzo 2019, giorno originariamente previsto per Brexit, John Bercow, l'allora speaker del Parlamento, proclama per la terza volta che l'accordo è stato respinto. Il 24 maggio Theresa May annuncia le sue dimissioni. Due mesi dopo, Boris Johnson viene eletto leader dei Tories e diviene nuovo primo ministro. Nell'autunno dello scorso anno, Johnson avvia un duro braccio di ferro con Westminster e rinegozia l'intesa Brexit sull'Irlanda del Nord con l'Europa. Poi a fine ottobre convoca elezioni anticipate. A dicembre Johnson stravince le elezioni, trovando così la strada spianata per realizzare Brexit il 31 gennaio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa è la prima puntata del nostro viaggio di Radio 24 su Brexit, appunto nella settimana che porterà la storica uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi abbiamo ripercorso, avete sentito, le tappe che hanno portato al divorzio tra Londra e Bruxelles a partire dalla mattina di un giugno di 3 anni e mezzo fa, quando avvenne l'impensabile. Di nuovo in Italia con la cronaca, la vicenda dei morti in corsia. Leonardo Cazzaniga, ex primario del pronto soccorso di Saronno in provincia di Varese, è stato condannato all'ergastolo per 12 omicidi, lo ha deciso la corte d'assise del tribunale di Busto Arsizio al termine di 7 ore di camera di consiglio. Strage in discoteca, la banda dello spray accusata di essere responsabile della strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella calca provocata da spruzzi di sostanza urticante morirono 6 persone, 5 minorenni e una mamma, ha chiesto di procedere con il rito abbreviato. Dopo la richiesta della procura del giudizio immediato, arrivata un anno dopo i fatti, gli avvocati dei 6 indagati hanno avanzato in questi giorni appunto la richiesta di procedere con il rito alternativo, il rito abbreviato, che permette di avere uno sconto di pena in caso di condanna. E poi la morte del campione di basket Kobe Bryant. Prima di schiantarsi al suolo, l'elicottero su cui sono morti l'ex star dell'NBA, la figlia Gianna Maria e altre 7 persone viaggiava a una velocità di quasi 300 km orari. Lo riportano i dati di Flight Radar 24, secondo cui il mezzo è sceso a una velocità di oltre 20 metri al secondo. Per stabilire l'esatta dinamica dei fatti vanno valutate tutte le circostanze e poi ne parleremo collegandoci con gli Stati Uniti. Per il meteo invece si parla in previsione dei giorni della merla, che saranno invece caldi, di solito sono quelli più freddi dell'anno. L'anno scorso sono stati freddi, ma quest'anno romperanno la tradizione che li vuole come più rigidi dell'anno. I giorni della merla, per appunto da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio, si annunciano con il sole e temperature più alte della media, anche se non mancherà qualche pioggia. E ora... Ai Grammy Awards, gli Oscar della musica, la cantante, sentite, Billie Eilish vince di tutto: miglior artista esordiente, miglior album dell'anno, migliore canzone dell'anno, miglior registrazione dell'anno. Insomma, Billie Eilish fa incetta dei premi dei Grammy e porta a casa vittorie nelle 4 categorie principali, un record visto che ha solo 18 anni è la più giovane artista ad aver raggiunto questo risultato. Il primato precedente appartiene a Christopher Cross nel 1981, ma all'epoca il cantautore aveva 30 anni. Il suo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, pubblicato nel marzo del 2019, è stato il disco più venduto in America nello stesso anno, oltre ad aver vinto come miglior album dell'anno. È stato premiato anche nelle 2 categorie minori di Best Pop Vocal Album e Best Engineered Album No Classical, mentre il singolo Bad Guys, che state sentendo, è stato considerato migliore canzone e migliore registrazione dell'anno. Insomma, un pieno straordinario, considerando che ha cominciato a scrivere e a comporre con suo fratello nel salotto di casa. Anche lui ha vinto dei premi, non ha detto molte cose, ha detto non vi farò perdere tempo, ha detto durante la premiazione a Los Angeles, ha detto solo grazie per tutto questo. Per chiudere invece, sport e stress, oppure eccessiva enfasi, mentre guardano la loro squadra del cuore, i tifosi più sfegatati sperimentano livelli di stress talmente alti da far aumentare il rischio di infarto. A mettere in guardia è uno studio pubblicato su Stress and Health, che ha testato la presenza di cortisolo, l'ormone dello stress, nella saliva dei tifosi durante 3 partite dei campionati del mondo Brasile 2014. Quindi attenzione, con moderazione, quando si guardano le partite non è questione di vita o di morte. Bene, è già molto tardi, quindi viabilità e poi torno ratta come la folgore. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E avete sentite le principali nella sintesi della giornata, adesso cominciamo invece a scendere nel cuore di alcuni argomenti in primissimo piano. Roberta Giordano sempre con voi, naturalmente, come sempre i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, li potete scrivere lì i vostri commenti oppure via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Dario dice: Bonaccini ha vinto, ma ne vedremo delle belle con chi gli farà opposizione. Mentre dice Viezzuccio: tutto quello che è successo me lo aspettavo, l'Emilia ha premiato chi ha ben governato, in Calabria è stato punito invece chi ha mal governato, poiché si tratta di elezioni amministrative, dice, non dovrebbero influire sul governo del paese. Poi invece dice per esempio Guido: Conte o è fuori in malafede, il grandissimo sconfitto è il Movimento 5 Stelle, Salvini ha fatto errori grossolani, dice Guido, ma già arrivare al 45% con tutto il centrodestra è un risultato enorme. Antonio dice Salvini, lo definisce il cazzaro verde come il giornalista Scanzi, dice senza dubbio il grande sconfitto di queste elezioni, è riuscito nell'impresa di rivitalizzare il PD con le sue stramberie su Bibbiano e sul Pilastro dopo le dimissioni del governo, il secondo autogol che si fa, e di politica parliamo. Quando si gioca si può vincere o si può perdere, per fortuna ogni tanto perdiamo, sai che noia, 9 elezioni regionali, ne abbiamo vinte 8, rifarei tutto, assolutamente, ma anche il citofono, il radiotelefono, il magnetofono e il grammofono. Così ha parlato Salvini nella conferenza stampa seguita poi a questa sconfitta per quanto riguarda l'Emilia-Romagna. Quindi siamo, come sapete, nel day after, cioè il giorno dopo dell'atteso voto in Emilia-Romagna e in Calabria, in particolare atteso in Emilia-Romagna, come sapete, perché appunto Matteo Salvini l'ha trasformato, battendo l'Emilia-Romagna palmo a palmo in un referendum su se stesso e anche sul governo. Qual è stato l'esito di queste consultazioni? Ormai lo sapete, vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna con Stefano Bonaccini, il presidente di regione uscente, e vittoria del centrodestra in Calabria con Iole Santelli di Forza Italia. Allora sentiamo prima di tutto i commenti in breve dei vittoriosi, prima di salutare, anzi la saluto adesso, Barbara Fiammeri, ciao cara Barbara. Buonasera a tutti. Del Sole 24 Ore, sentiamo Bonaccini. Lì abbiamo voluto rappresentare cosa siamo stati in queste settimane, cosa abbiamo voluto indicare, tenere sempre insieme le radici e il futuro. E credo che abbia vinto l'Emilia-Romagna con una risposta corale straordinaria per dire appunto che qui si voleva rispetto e parlare della nostra regione. E adesso invece Iole Santelli, che ha vinto in Calabria, la nuova presidente in quota Forza Italia, non vi spaventate, era completamente afona. Sentiamo quello che si riesce a capire. Io credo che i risultati si convengano più là nella notte, ma sono risultati enormi. Ciao Iole! Viva il presidente, viva il governatore della Calabria! Questo Tajani che si congratula con Santelli, e poi lei ha ricevuto una telefonata di Berlusconi, lei dice, sentiamo, dice devo molto a un uomo, a quest'uomo. Terzo, ma non l'ultimo, all'uomo che mi ha consentito di fare della politica la mia vita. Pronto, posso mandare un saluto? E poi poi tutto il resto con il Presidente del Consiglio Conte che ha detto non ho cambiato idea, avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali questi, anche se per carità possiamo anche dare loro dei significati politici. C'è stato chi ha inteso fare di questo appuntamento elettorale impropriamente un referendum pro o contro il governo e anche sullo stesso Salvini. Allora sentiamo questo passaggio di Conte che dice Salvini è l'unico sconfitto. C'è stato chi però ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, io ritengo impropriamente, un referendum contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, che devo ritenere proprio per questo atteggiamento che io giudico improprio, esce come il grande sconfitto di questa competizione. Allora Barbara Fiammeri, siccome abbiamo tantissime cose da dire, risposte sintetiche come tu sai fare, per quanto riguarda, cominciamo dall'Emilia Romagna che appunto era l'appuntamento più cruciale, quello a cui evidentemente Salvini e non solo Salvini anche il centrosinistra teneva di più. Salvini perché appunto continuava a dire nella campagna elettorale se vinciamo daremo una spallata al governo, quindi ne faceva una questione di governo nazionale, no? Però è andata diversamente. Beh sì, è andata diversamente e Salvini probabilmente, anche se oggi ha detto che rifarebbe tutto, in realtà probabilmente qualcosa lo cambierebbe. Perché l'Emilia Romagna sembra che non porti fortuna a Salvini, dal Papete a Milano Marittima fino a questo voto, sì, al diciamo citofono, al pilastro. Le due grandi battaglie di Salvini, cioè la crisi agostana di governo per andare al voto e la spallata al governo successivo, al governo giallorosso, per sempre per ritornare ad eventuali elezioni anticipate, le ha perse entrambe e le ha perse perché probabilmente ha sbagliato strategia allora come oggi. Ricordate che allora ci fu il comizio in cui lui chiese i pieni poteri, qui ha fatto una campagna anche qui molto molto con toni molto aspri, insomma, e sostanzialmente ha da un lato rimobilitato la sinistra con il Movimento delle Sardine che come dire, si è contrapposto, è andato in piazza, no? Il PD non va più in piazza, ci sono andati questi ragazzi che piano piano però hanno, come dire, quasi probabilmente riacceso, risvegliato un elettorato di sinistra che alla volta scorsa, non dimentichiamo, alle regionali precedenti aveva votato in Emilia soltanto meno del 40% delle persone, questa volta siamo invece oltre il 60%, quindi è chiaro. Grande che... partecipazione. Barbara, io farei sentire Bonaccini sul ruolo appunto delle sardine, che lui aveva detto fino alla sua vittoria non si era mai sentito con i fondatori delle sardine. Sentiamolo. Le sardine, ho già detto più volte in queste settimane, hanno avuto un merito straordinario, che è quello di mobilitare, di dimostrare che le piazze non le riempiva solo Salvini. Permettetemi, l'ho dimostrato anch'io da solo, e poi hanno dimostrato davvero che c'era un'esigenza, una voglia di, quando ho sempre detto, quando Salvini e Meloni dicono che sono piazze contro quelle di Salvini, sbagliano proprio l'obiettivo politico, ed è incredibile che due leader come loro facciano una gaffe così clamorosa. Non sono piazze contro, a parte che nessuno di noi può pensare che ha tutti a favore in un paese, no? Barbara, allora, da una parte appunto dici Salvini una campagna forse fin troppo aggressiva sopra le righe, può darsi abbia spaventato anche alcuni moderati del centrodestra, dall'altra le Salvine con il loro forte contributo e dall'altra ancora il buon governo che è stato più volte ripetuto in questi mesi di Bonaccini, perché l'Emilia Romagna è considerata una regione un po' sé stante. È stato fatto un errore di valutazione molto significativo da parte di Salvini, direi anche da parte del Movimento 5 Stelle, che è l'altro grande sconfitto di questa competizione elettorale. Un errore significativo perché Salvini probabilmente immaginava che, non dico quasi uguale, ma fosse la stessa cavalcata che aveva fatto in Umbria, con una differenza sostanziale. L'Umbria era una regione che veniva praticamente con delle elezioni anticipate dovute a uno scandalo che aveva investito il governatore di quella regione, del Partito Democratico, e quindi in fortissima difficoltà. I 5 Stelle si sono alleati in quelle condizioni con il Partito Democratico, cosa che invece non hanno fatto poi in Emilia, decidendo di correre da soli, E qui invece il PD poteva avere, come dire, aveva dalla sua un governo, perché era riconosciuto un po' da tutti il fatto che il governo dell'Emilia fosse un buon governo. Quindi di fatto Salvini ha deciso proprio per questo di spostare la campagna tutta su un fronte nazionale. Però qui forse ha fatto un altro errore. L'altro errore è stato che proprio al Papete lui impose la Borgonzoni come candidata del centrodestra. E che l'ha tenuta sempre un po' sotto il tappeto, con tutto il rispetto per la Borgonzoni, no? Diciamo. Cioè lui l'ha imposta quando la Meloni, per esempio, aveva già detto che bisognava discutere sul candidato dell'Emilia, aveva espresso delle perplessità, anche Forza Italia aveva espresso delle perplessità. Salvini, forte insomma del consenso avuto alle europee, ha imposto il candidato. Ora anche questa scelta non si è rivelata felice, perché la Borgonzoni è andata sotto il numero dei voti che ha preso la coalizione di centrodestra, cioè vuol dire che una parte dell'elettorato di centrodestra, sia pure minima, ha deciso Bonaccini. Di votare di non votarla, di utilizzare il voto disgiunto, cioè allora, di votare Bonaccini. Chiaro. Barbara, questa vittoria, adesso stiamo parlando qua dell'Emilia Romagna, rimette quindi un po' al centro il PD, lo rinvigorisce, un po' lo inorgoglisce. Sentiamo Zingaretti che dice: il PD è forte nonostante due scissioni che abbiamo avuto. Il PD è tornato ad essere il principale interlocutore, dato straordinario anche perché noi abbiamo subito due scissioni nel frattempo, invece il PD è là grazie soprattutto alla fiducia dei cittadini e di tante donne, uomini, giovani, militanti. Allora, i PD, soprattutto Bonaccini, possono ritenersi decisamente soddisfatti. Non è proprio una debacle totale quella della Borgonzoni e della Lega, comunque, no? Nella regione considerata rossa da 70 anni. Allora, non è una debacle totale, perché indubbiamente è vero quello che dice Salvini, cioè per la prima volta l'Emilia è stata una regione contesa, cioè fino a poco tempo fa era impensabile soltanto immaginarlo. Però è anche vero che Salvini sulla presa dell'Emilia aveva investito tutto ed era convinto di farcela. Fino alla fine, anche perché nei giorni scorsi i sondaggisti ovviamente continuavano a fare il loro lavoro. I sondaggi davano avanti la coalizione di centrodestra e Borgonzoni. Sì. In realtà poi si è visto al momento del voto che c'è stata una valanga di persone che è andata a votare, che probabilmente non ci si attendeva una partecipazione così vasta, così ampia. Barbara, sottolineo che tra l'altro questa partecipazione è avvenuta soprattutto nelle città dove il Partito Democratico era particolarmente forte. E tra l'altro vogliamo dire che ha stravinto il PD a Bibbiano, proprio dove Salvini ha voluto chiudere la campagna elettorale. Anche qui probabilmente cioè questa eccessiva strumentalizzazione da parte della Lega, di Salvini, sia su Bibbiano, sia la storia del citofono, cioè alla fine probabilmente un popolo come quello emiliano io non credo che abbia, li ha infastiditi, si sono sentiti come se sono qualcuno irritati, dicesse cosa devono fare. Sì. Barbara, sentiamo però Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che cosa dice. Dice: il governo non ha molto da festeggiare comunque. Dopodiché credo che anche il governo non ne esca rafforzato. L'area di governo perde complessivamente altri 5 punti. I 5 Stelle sostanzialmente scompaiono, questo produrrà dal mio punto di vista anche un discreto nervosismo all'interno dell'area di governo, e quindi non mi pare che da parte loro ci sia molto molto da festeggiare. Allora Barbara, molto in sintesi, da una parte quindi diciamo anche Meloni e Berlusconi possono a questo punto prendere un po' per le orecchie Salvini e dire: hai voluto fare one man show tutto da solo, e no, qui il centrodestra deve essere unito, quindi non è che può essere protagonista assoluto, far tu la campagna. Guarda. E quindi si può un po' ridimensionare probabilmente secondo Meloni e Berlusconi. Dall'altra bisogna vedere se col fatto che il Movimento 5 Stelle si è così ulteriormente indebolito, se cambia qualche equilibrio nel governo. molto in sintesi, Barbara. Allora, gli in altri. Sintesi ti dico che secondo me la Meloni nel centrodestra è l'unica che ha vinto, cioè Fratelli d'Italia, perché ha ampliato molto i suoi voti in Emilia Romagna e anche in Calabria, mentre la Lega di Salvini in Calabria ha perso voti e in Emilia Romagna non è avanzata. Forza Italia ha come dire, conquistato con la governatrice Santelli la Calabria, però insomma continua ad andare sempre peggio, nel senso che in Emilia praticamente siamo ai minimi termini. Quindi da questo punto di vista secondo me la Meloni è quella che ne esce meglio nel centrodestra. Per quanto riguarda gli effetti sul governo, io ritengo che vada sottolineato un aspetto. Il governo sta per decidere la data del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. 29 marzo, cioè, 29 marzo, uscita la data. Da 1000 a 600. Sì, uscita la data 29 marzo, dovrebbe essere la data quella. Del 29 sì. marzo, quindi è evidente che nel momento in cui si terrà questo referendum, che cioè, tutti sostengono e credo che sia così, confermerà appunto la riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari, a quel punto penso che la legislatura sarà davvero blindatissima, perché anche i partiti che pensano di guadagnare voti alle elezioni politiche, comunque non potrebbero portare in Parlamento un maggior numero di deputati o senatori rispetto a quelli che hanno oggi. Cioè la stessa Lega che raddoppierebbe, stando ai sondaggi di oggi, i consensi avuti 2 anni fa, comunque non porterebbe più parlamentari, sarebbero lo stesso numero che ha oggi. E quindi è molto difficile schiodare un Parlamento quando i posti in lizza diminuiscono. Barbara, c'è un ascoltatore, dice Roby, di a Barbara che noi grillini non molliamo mai. Infatti oggi anche il reggente del Movimento 5 Stelle, dopo le dimissioni di capo politico di Di Maio dei giorni scorsi, Vito Crimi ha detto: noi siamo nati dal fallimento del bipolarismo, non ci arrendiamo, andiamo avanti, non ci importa di destra o di sinistra, noi dobbiamo fare quello che i cittadini ci chiedono, ci dobbiamo concentrare sui temi e dobbiamo ci rialziamo e andiamo avanti. Io direi di chiudere qui, anche perché il tempo è finito, Barbara. Va bene. Volevo solo dire che il Movimento 5 Stelle, che è stato protagonista proprio nell'ascolto dei cittadini e per questo ha avuto un grande successo 2 anni fa, dovrebbe adesso ascoltare i cittadini che gli hanno voltato completamente le spalle, e qualche motivo ci sarà. Forse allora, dovrebbero capire che cosa fare da grandi. Annuncio solo che nel 2020, quindi quest'anno, al voto ci sono altre 6 regioni. C'è il Veneto, la Toscana, la Campania, la Puglia, le Marche, la Liguria. Mi viene mal di testa, Barbara, avremo modo di parlarne. Grazie. Vedremo. Barbara Fiammeri. A presto. Arrivederci, grazie a tutti. Ciao cara Barbara, prendiamoci questa pausa, piccola pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure sms e whatsapp al 349-238-6666. Nuovo Renault Koleos, a gennaio tuo da 389 euro al mese in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento. TAN 549, TAG 645, salvo approvazione fin Renault. Info presso la rete aderente su Renault.it. Prova il nuovo motore blu DCI 4x4 190 cavalli. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Sono Carlo Bonomi, essere a Connext è una grande opportunità per le imprese del sistema Confindustria. Connext non è una fiera, ma è una modalità moderna per fare rete per le nostre imprese. Connext è a Milano il 27 e 28 febbraio. Scopri di più su connext.confindustria.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Qui per voi, come sempre, tutte le sere, Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Abbiamo parlato ampiamente di politica italiana, visto che siamo nel giorno dopo i voti attesi, in particolare in Emilia Romagna, ma anche in Calabria, con la vittoria del centro-sinistra in Emilia Romagna e quella del centro-destra con Iole Santelli in Calabria di Forza Italia. Ancora tanti vostri commenti, vedo parlando di politica, però adesso dobbiamo concentrarci su una questione a sua volta molto importante, che è quella relativa al virus cinese, agli sviluppi insomma di questo virus e dell'incidenza che ha a livello internazionale. Diciamo che la notizia più rilevante di oggi, a parte naturalmente che continuano i contagi, si parla per quanto riguarda la Cina di almeno 3.000, ma qualcuno accusa la Cina, che nonostante parla addirittura di 44.000 i casi a Wuhan, quindi più di quelli che la Cina sta dichiarando. In ogni caso, dicevo, la notizia più rilevante è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus è elevato, ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui scriveva che il rischio era moderato nei giorni scorsi, appunto. Il presidente americano Trump ha detto: siamo in strettissima comunicazione con la Cina, abbiamo offerto aiuto, e poi oggi c'è il primo caso sospetto anche in Africa, in Costa d'Avorio. Fra l'altro il virus, l'avete sentito anche della sintesi della giornata, ha affossato i mercati europei. Ne voglio parlare con il professor Fausto Baldanti, virologo dell'Università di Pavia, responsabile del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia. Professor Baldanti, buonasera. Buonasera a lei. Allora, quindi continua insomma a far paura, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raddrizzato un po' il tiro in questo senso, però vedevo anche che c'era una dichiarazione poco fa in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'Italia, per quanto riguarda l'Europa, è la più attenta. Vediamo se lo recupero, era uscito pochi istanti fa. Eccolo qui: tra i paesi occidentali l'Italia è la più fornita e la più attenta, lo ha dichiarato il direttore generale aggiunto dell'OMS Raniero Guerra, riguardando le misure del nostro paese. Quindi per quanto riguarda noi, professor Baldanti, possiamo stare tranquilli. Diciamo che fa piacere sentire una volta tanto che l'Italia non si è fatta trovare impreparata, anche se dirsi preparati di fronte a queste situazioni è sempre un po' grossa, ecco, perché effettivamente noi ci troviamo di fronte a un evento nuovo. Sappiamo che questi eventi ormai possono in qualche modo ripetersi nel tempo. Abbiamo avuto la SARS nel 2002, abbiamo avuto l'influenza, diciamo, l'ultima pandemia nel 2009, abbiamo avuto nel 2011 la MERS, quindi sono eventi che periodicamente ormai ci capitano. Ecco. Lei diceva del numero, sì. Questi numeri, e soprattutto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha alzato un po' l'allerta. Mm. Ecco. È sicuramente un discorso di prudenza quello di alzare l'allerta, perché oggettivamente è un virus che sembra diffondersi con una certa rapidità. Faccia conto che i coronavirus sono presenti e convivono con l'uomo da probabilmente da milioni di anni, o da migliaia di anni, da quando c'è l'umanità. Noi abbiamo tutti gli anni, incontriamo 4 coronavirus umani che circolano insieme all'influenza nella stagione influenzale. Questo è un coronavirus nuovo che ha un'origine molto probabilmente animale, molto probabilmente un'origine che coinvolge i pipistrelli, che sono un serbatoio principale di questi virus, e che per qualche mutazione o ricombinazione con altri virus di altri animali è stato in grado di infettare l'uomo. Comunque, professor Baldanti, è, per rassicurare anche le persone, una forma di polmonite che però non è così perniciosa, mortale, nel senso che le persone che sono morte, almeno dei numeri che abbiamo sinora, erano già fragili di per sé, no? Certo, allora, questo ha fatto benissimo a ricordarlo. Le persone che hanno, di cui si sa, perché ovviamente noi non siamo là, comunque, le persone che hanno avuto un decorso sfavorevole erano tutte persone anziane con importanti patologie concomitanti, per questo è quello che è stato riportato finora. E l'altra cosa importante da dire è questa: ad oggi sono riportati circa 80 di decessi, più o meno, su un numero di 3.000 infetti documentati. Questo posizionerebbe la letalità di questo virus intorno al 3% degli infetti. Faccia conto che il virus dell'influenza ha una, è associato a una mortalità in quell'ordine di grandezza. Mm. Quindi siamo, non è più così aggressivo. Non è così aggressivo, insomma, su questo no. Possiamo stare per il momento, insomma, diciamo sì, abbastanza rassicurati. E tra l'altro ricordo che sono arrivati al numero verde istituito dal Ministero della Salute sì, italiano, numero verde che è 1500, 400 telefonate, quindi grande preoccupazione, sì, poi certo, magari delle persone che devono viaggiare verso la Cina, però è sconsigliabile, questo è già stato detto, se uno proprio non ha un'emergenza assoluta, una necessità inderogabile di andare in Cina, meglio non andare, la Cina stessa sta bloccando trasporti, scuole, l'università, eccetera, eccetera. Quindi direi che per il momento, come diceva lei, professor Baldanti, con questa dichiarazione di Raniero Guerra dell'OMS, che l'Italia è quella che è più diciamo avanti nelle misure, è più forte, possiamo per il momento, insomma, non fare allarmismi, no? Mi sembra questa la conclusione. Sicuramente, più. No, sicuramente non bisogna allarmarsi, non bisogna pensare che questo è l'apocalisse, diciamo, ecco, mettiamola così. La cosa non è neanche da sottovalutare, perché ovviamente un virus che abbia anche una bassa letalità o comunque una letalità entro limiti non elevati, è ovvio che se colpisse un ampio strato della popolazione, i numeri sarebbero chiaro più preoccupanti. Però credo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia elevato l'allerta non tanto per l'aggressività intrinseca del virus, quanto per potenziale sua diffusibilità e capacità di infettare la sua velocità. Grazie intanto, professor Fausto Baldanti, ricordo dell'Università di Pavia, responsabile del laboratorio di virologia molecolare Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie professore, buon lavoro, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani e gli ebrei fu feroce e spietata, e la metà degli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio fu catturata e avviata la deportazione dei fascisti. Il perdono esiste, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle vittime innocenti di quell'atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni, perché non avvengano mai più quegli orrori. Avete sentito il Presidente della Repubblica Mattarella a proposito appunto oggi della giornata della memoria, che abbiamo sentito anche all'inizio, cioè sono passati 75 anni da quel 27 gennaio del 1945 quando l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento nazista di Auschwitz, la più grande tragedia. Quella dello sterminio di 6 milioni di ebrei e anche di sinti, di omosessuali, che ha segnato la vita del secolo scorso, la Shoah. E nonostante tutto, purtroppo ci sono tuttora ancora dei rigurgiti anche in Italia di nazismo, di indegnità veramente ignobili. Nei giorni scorsi a Mondovì, vicino Cuneo, qualcuno che ha scritto sulla casa di Lidia Rolfi, dove adesso vive il figlio, dove lei è vissuta fino al 1996, è stata staffetta partigiana, voce degli orrori dei lager nazisti, ha scritto: qui vivono degli ebrei. E lo stesso è successo anche a Brescia, e poi questa sera a Torino sulla casa di un palazzo di Corso Casale è stato scritto: crepa sporca ebrea, scritta su questa casa dove vive una donna appunto ebrea. L'importante è, come dice Mattarella, avere gli anticorpi, la memoria, che è la vera arma, insomma, contro la possibilità che queste cose possano ripetersi. Allora mi collego con Paolo Adriano, che è sindaco di Mondovì. Buonasera sindaco. Buonasera a lei. Perché voi, a proposito di anticorpi, avete risposto questa sera a quelle scritte indegne, ignobili, appunto, sulla casa di Lidia Rolfi con una fiaccolata, in migliaia, no, presenti questa sera? Sì, esattamente, è stata una bellissima risposta a questo brutto episodio. La città, non solo la città, tutto il territorio, tutta la regione, non si erano mai visti a Mondovì tanti rappresentanti delle istituzioni di tutti i colori politici, quindi questa risposta ci ha fatto veramente molto piacere, ci ha commosso. C'erano tantissimi ragazzini, tantissimi bambini, oggi abbiamo celebrato la giornata della memoria con loro, abbiamo fatto tante manifestazioni insieme, quindi è bello che la città abbia questa sensibilità. Questo è stata una testimonianza che Mondovì non è una città razzista, è una città aperta dove si vive bene, si integra. Quindi diciamo avete anche con questo gesto bellissimo di migliaia di persone, questa partecipazione, isolato l'imbecille che può aver avuto, diciamo così, questo rigurgito, no, assolutamente inutile e deleterio. Prego. Sì. Ma sì, adesso vi sono delle indagini in corso, la procura è stata molto solerte, insomma stanno facendo delle indagini, sono molto, diciamo, stati molto ceneri, speriamo che venga individuato, ma comunque la risposta della città è stata veramente significativa. Bene. E questo ci ha commosso. Siamo contenti. Grazie sindaco Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, e grazie a Mondovì, un abbraccio a voi. Grazie sindaco. Grazie, buon grazie lavoro. Anche a voi, grazie, buon lavoro a voi. Our daughters Natalia, Gianna e Bianca, ti amo con tutto il mio cuore. Questo è Kobe Bryant, il grande campione di pallacanestro che è emozionato e orgoglioso sul palco di Los Angeles nel 2018, aveva ritirato l'Oscar per la sceneggiatura originale di Dear Basketball, il film che ha vinto come miglior cortometraggio di animazione. Dal palco lui aveva ringraziato con il cuore, con amore, la moglie e le figlie a cui ha dato, la moglie Vanessa e le figlie a cui ha dato nomi italiani, Natalia, Gianna Maria, scomparsa con lui in questo incidente in elicottero ieri, e Bianca. Non è stata citata la quarta figlia Capri perché è nata nel giugno 2019, quindi ancora piccolissima. Marco Valsania, corrispondente degli Stati Uniti. Ciao caro Marco. Buonasera. Marco, allora lo abbiamo ricordato, Kobe Bryant è scomparso ieri a 41 anni in questo tragico incidente di elicottero insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 persone, la figlia che anche lei era una promessa, un astro nascente del basket femminile. Adesso c'è un'inchiesta, si parla di una possibile causa dello schianto dell'elicottero, la nebbia, le condizioni meteo proibitive, Marco? Sì, sì, è così, il focus è tutto sulle condizioni atmosferiche considerate piuttosto proibitive per il volo, la nebbia era fitta, tant'è vero che l'elicottero privato di Bryant aveva dovuto ottenere un permesso speciale per continuare a volare, tant'è vero che persino le forze dell'ordine della contea di Los Angeles e degli intorni avevano in realtà avevano tenuto a terra i loro elicotteri che normalmente sorvolano la zona proprio perché la visibilità era considerata inadeguata, insufficiente, sotto gli standard minimi di sicurezza. L'elicottero aveva tuttavia ottenuto comunque un permesso speciale di volo nonostante le condizioni, ma dalle prime ricostruzioni, dai primi risultati dell'indagine pare che alla fine proprio la scarsa visibilità abbia spinto l'elicottero a volare troppo basso e a questo punto i controlli di volo da terra hanno perso il contatto con il velivolo che poi si è schiantato contro, a piena velocità, contro le colline a nord, diciamo una 40-50 di chilometri a nord di Los Angeles, mentre appunto come Brian, sua figlia e altri 7 passeggeri erano in volo verso la Mamba Sports Academy fondata dallo stesso Brian, che era una delle iniziative così che aveva lanciato dopo il suo ritiro dallo sport, diciamo, competitivo, dopo una carriera appunto con pochi pari nel basketball e nell'intero sport professionistico americano, accademia che appunto per dedicare ai giovani che coltivavano lo sport, tra cui appunto la figlia Gianna, morta con lui. Come hai ricordato, Bryant era rimasto, diciamo, un molto popolare sia negli Stati Uniti che all'estero, proprio per la sua capacità, non solo per le sue prodezze sportive, ma per la sua capacità di iniziativa creativa, di uomo d'affari, ma anche appunto di intensità creativa che lo ha portato, per esempio, a provare anche a provare anche a Hollywood, a cortometraggio. Tra l'altro, Marco, ricordo che lui ha passato parte dell'infanzia e dell'adolescenza a Reggio Emilia, ecco perché sapeva l'italiano e perché ha dato le figlie dei nomi italiani alle 4 figlie. E adesso leggo la notizia che Reggio Emilia gli intitolerà una piazza. Grazie, Marco Valsania degli Stati Uniti. Ci dobbiamo lasciare. Io torno brevemente alle 22.